Sono nato alle soglie dell'inverno, in montagna, e la neve ha accompagnato la mia vita. All'asilo infantile, le suore ci avevano insegnato una canzoncina che diceva di un bambino che dormiva in una culla e di una vecchia che cantava, il mento sulla mano. Nel bel giardino il bimbo s'addormenta, la neve fiocca lenta, lenta, lenta. Come iniziò il film? E apparve Tom Mix al galoppo sul suo cavallo Todi. Ci fu un simultaneo battere di piedi sul pavimento di Astri e le scarpe con le brocche sollevarono un turbine di polvere che si animò nel raggio di luce fra il proiettore e il grande telone bianco. Un coro di voci lesse le prime didascalie e poi ci fu un improvviso silenzio perché si incominciava a vivere una meravigliosa storia e non occorreva che Pepi, detto Garibaldi, gridasse a tutta voce «Silenzio voce!» Ricoverata in un istituto specializzato nella cura della sua artrite deformante. In assenza di mio padre, a governare la famiglia erano il fratello del nonno e Neni, la nostra unica sorella, che aveva 15 anni. Gli altri tre fratelli erano tutti giovani, tra i 10 e i 17 anni. Nei giorni in cui rimasi a casa, andavo in bicicletta dal nostro paese all'istituto dove era ricoverata mia madre. Il direttore aveva detto al personale che potevo presentarmi a qualsiasi ora. Mi fermavo con lei sulla terrazza, dove faceva la cura del sole, davanti al bellissimo paesaggio del nostro altipiano. E ogni tanto lei posava sulle mie le sue mani, deformate dalla malattia. Addio le tose bionde, le se tutte vagabonde, addio le tose more. Addio le belle putte e ai fiori delle sucche. E dorme il soldatino in braccio alla sua mamma, che pian pianeo lo chiama e la campana de passan. La sente in alti piani. Un bel tipo era anche meschino. Era lui che faceva la polenta la sera, mescolava con energia le maniche della camicia rimboccate fino al gomito, una goccia di sudore per ogni pelo di barba, si vedevano i muscoli delle braccia del viso irrigidirsi, si piantava a gambe larghe, così mescolava la polenta Mischini, pareva vulcano che batteva sull'incudine. Raccontava che quando in Albania la tormenta faceva bianco il pelo dei muli neri e il fango faceva diventare i neri i muli bianchi,